8. Ascolta e controlla. 1. Non capisco l'esempio. 2. Deve salutare gli allievi. 3. Il professore corregge gli esercizi. 4. Non è facile l'inizio di un corso. 5. In Italia l'ospite è sacro. 6. Tutti gli uomini sono mortali.